cancello senza uscita della nostra civiltà. Quattro maschere di carta giocano a chiamarsi libertà. Non c'è Dio sopra il soffitto, dici è morto, lo sai già. Ma nel vuoto della stanza qualcun altro prenderà il suo posto qua. Col sorriso del vincente, la fame di chi avrà. Dentro il mio ed il tuo io, nei corridoi dell'ufficio come in un bordello chic, si barattano rispetto per un like, per un profit, gareggiamo coi vicini, figli, sport, curriculum, e il fallire dell'altro è la droga. Che ci abita, lo sai anche tu. Tu lo chiami meritocrazia, ma è un tribunale occulto. Ogni voto, ogni sconfitta è un marchio a fuoco sul risultato. Nel campionato dell'ego non esistono pareggi, solo idoli di cartone condannati senza appelli. Non servono più catene, né uniformi né saluti. Basta un conto in banca pieno e una folla di piccoli zitti battuti. E intanto Pasolini urla da uno schermo mezzo blu. Vi specchiate in questo orrore e non vi riconoscete più. Siamo figli di Salò, di un postmoderno carnevale dove il male sadocrazia che ci guida sull'orlo del vuoto. E se invece di competere ci fermassimo a cadere tutti insieme senza podi né trofei da proteggere, se lasciassimo il castello alle rovine del passato per tornare un po' mortali senza un trono da usurpare al creato. Forse il limite è una stella che ci indica chi siamo, non un muro da abbattere per regnare sull'umano. Siamo figli di Salò, ma possiamo rinnegare questa fede nell'oltraggio, questo culto del dominare. Scendi giù dal piedistallo, io mi tolgo i panni di Dio, finirà la sadocrazia quando smetto di volere il tuo addio. Non voglio più la tua rovina per sentirmi vivo, che mi sta